Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Ma si rende conto cosa vuol dire avere una figlia che si laurea con 110 e lode? Che è anche la più giovane laureata del 1950. Ma non immagina cosa voglia dire per me, per suo padre, per tutti i nostri amici, vivere un momento come questo. È proprio un momento speciale quello della laurea, come abbiamo sentito da questo spezzone del film Festa di laurea di Pupi Avati. Un momento speciale non solo per chi finalmente ha finito di studiare, ma anche per genitori, parenti, amici. Ormai le feste di laurea sono un gran casino, tanto che molti atenei hanno deciso di dare uno stop. Chi ha vietato cibi e bevande, come Urbino, chi ha vietato i coriandoli, Bologna, chi ha vietato i manifesti, Ferrara, chi ha messo dei vigilantes, come la Bocconi di Milano, chi ha anche deciso di contingentare il numero di invitati per evitare pullman carichi di parenti scatenati, e chi più drasticamente ha deciso di eliminarle del tutto le feste di laurea, come la facoltà di economia della Ca' Foscari di Venezia, almeno per le lauree di primo livello. Decisione necessaria, ci spiega Antonella Basso, preside di economia. No, succede che in sostanza vengono tirati addosso oggetti vari, ma soprattutto uova marce, farina, e poi sostanzialmente che cosa succede? Che lasciano la città sporca, non solo dentro le sedi universitarie, perché allora sarebbe a fare il nostro pulire, ma anche fuori, cioè si spargono per i vari campielli di Venezia e dopo appunto lasciano, quindi abbiamo la cittadinanza che si lamenta, devo dire, giustamente. E allora ci sono stati fatti vari tentativi per invitare sostanzialmente, solo che è un giorno in cui la festa, la gioia è tanta che è incontenibile, nel senso che abbiamo anche provato a prendere delle guardie giurate, però il problema è che dove la guardia giurata c'è, girato l'angolo, dopodiché siamo da capo. No, devo dire una cosa, ha ragione, però, che nelle lauree magistrali non è mai stata tolta la cerimonia, quindi c'è tuttora la proclamazione ufficiale, tra l'altro le lauree vengono effettuate nell'aula magna di Cadolfin, che vuol dire, è molto bella. Quindi anche la coreografia, insomma, è bella. Devo dire, è molto bella in realtà, e tuttora c'è. Allora si cerca ogni volta di ricordare appunto ai ragazzi e alle famiglie che per cortesia non sporchino. Allora qualcuno si porta il telo, un telo per cui mettono il festeggiato sopra il telo e dopo raccolgono il telo e lì possono tirargli quello che vogliono. Esattamente. Nelle lauree triennali invece non ci abbiamo provato più volte. Poi alla fine appunto l'avevamo tolta proprio perché era difficile da governare, quindi il problema è proprio che sporcano la città. Cioè sono più indisciplinati? Sì, ma in realtà è che in quel giorno si scatenano. Cioè, io non posso ma dire si che scatena ragazzi, chi? Il laureando, gli amici o addirittura anche parenti, genitori, nonni? No, in realtà non sono tanto genitori, nonni, ma i colleghi, gli amici della stessa età. Fanno un po' di confusione. Senta, ma è vero che si presentano anche un po' troppi familiari, un po' troppi parenti, che diventa è vero che se ne presentano parecchi, però io non li considero troppi. Io considero che quella sia una cerimonia degna di essere festeggiata. Questo è chiaro che io tutto sommato preferisco vedere, mi dà più gioia vedere una persona con molti al seguito piuttosto che qualcuno ogni tanto ce n'è che entra in sala da solo. E quella è proprio una tristezza, certo, un po' triste. È tutto relativo, è proprio un problema semplicemente di gestione di ordine pubblico, perché per il resto no, non posso dire, è che proprio c'è a un certo punto la goliardia arriva a scatenarsi in quel giorno e solo in quel giorno, devo dire. E quindi che cosa avete deciso? Allora, no, a questo punto avevamo solo per le lauree triennali tolto fondamentalmente la cerimonia di proclamazione. Adesso stiamo anche gli stessi ragazzi hanno chiesto più volte di ripristinarla. Una volta hanno addirittura si sono impegnati a fare loro un servizio d'ordine, l'hanno fatto, ma anche loro sono stati incapaci di ricondurre a ragione i loro colleghi. Sono rimasti giornata. Travolti dall'entusiasmo. Esatto. E no, allora devo dire che comunque noi continuiamo a avere la richiesta degli studenti, dei rappresentanti degli studenti, di ripristinare una cerimonia, ma appunto so che il rettore nel suo programma sta proprio pensando di istituire una cerimonia, probabilmente, adesso ripeto, i dettagli non sono ancora studiati fino in magari fondo. Magari un po' più sobria. Ma in realtà diciamo così, più, forse più simile a quelle americane, ecco, mettiamola così, proprio una solenne specie di graduation day. Mm-hmm. Esatto, però quindi non è vero che la stiamo eliminando, perché addirittura economia, che da alcuni anni nelle lauree triennali, solo in quelle l'ha eliminata, la ripristinerà assieme a tutte le altre le facoltà con questa, quindi probabilmente si prenderà uno spazio molto ampio e si farà una cerimonia con tutte le famiglie presenti, per esempio, o comunque dividendoli in grossi gruppi. Bisogna fare qualcosa. Assolutamente. E sai che faremo? Un toga party. Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Anche questa è una festa di universitari, forse l'avrete riconosciuta, il film Animal House, balli scatenati e foglie d'alloro fra i capelli, ma ben altro succede alle feste di laurea all'Università di Padova, che però ha deciso per il momento di non intervenire con restrizioni. Qui le feste hanno una tradizione antica, anche se è andata un po' degenerando di anno in anno. Come ci racconta Giovanni Cescon, tribuno degli studenti padovani, cioè a capo della Goliardia, l'associazione studentesca. Beh, allora, innanzitutto la festa di laurea nasce prima ancora della laurea in sé, perché viene preparato un papiro in cui viene fatta una caricatura del laureando e in cui vengono scritte in rima, in maniera più o meno volgare, tutte le malefatte di cui sono a conoscenza gli amici e che probabilmente i vari parenti e fidanzati non conoscono. Quindi lo mettete alla berlina di fronte a tutti i parenti? Sì, di fronte a tutti i parenti e di fronte alla cittadinanza intera. Infatti questi papiri vengono affissi poi intorno alla città. Questo appunto perché? Perché il laureato, l'obiettivo del festeggiamento di laurea è quello di far passare il laureato da, tra virgolette, la figura più importante all'interno del mondo universitario in quanto a quello che ha più esperienza, che sta concludendo, farlo diventare invece il più sfigato all'esterno. Che carini che siete, sì, esatto, che pensieri gentili. E tutto il festeggiamento di laurea, bene o male, si basa su questo. Cioè sul ecco, cosa succede ancora? Perché di fatto, vabbè, questo mettere alla berlina il laureando non è bello, però non disturba. Invece in altre università hanno imposto dei limiti proprio perché questi festeggiamenti sono molto chiassosi. Sì. E so che anche voi da questo punto di vista non scherzate. Nel festeggiamento classico viene, allora, l'Università di Padova ha la sede centrale nel Palazzo del Bo, che al piano di sotto ha un cortile con delle colonne. Il poveretto, che di solito si laurea al piano superiore, intanto viene preso per i piedi dal piano superiore e trascinato con il sedere sui gradini. Tutto questo ovviamente nudo. Che meraviglia. Dopodiché viene fatto... Cioè completamente nudo? Beh, ormai si usano le mutande purtroppo. Ah, meno male. Però ci denunciano. E dopodiché gli vengono fatti fare 8 giri di corsa all'interno del cortile, in cui tutti quanti lo percuotono a piacimento. Con che cosa? Solitamente con le mani. Ah, meno male, niente mazze. E dopodiché dipende poi molto anche perché il festeggiamento della laurea è una tradizione goliardica qui a Padova. La tradizione non prevedeva l'utilizzo di uova, farina e piuttosto che panna montata, queste cose qui. Invece adesso ci sono anche queste. Invece adesso lo fanno tutti quanti, ovviamente, perché non conoscono il perché di quello che fanno. E quindi tirate uova, spalmate panna. È molto comune il fatto sì che vengano, comunque sia, vabbè, poi c'è il tunnel, che tutti gli amici si mettono a fare un corridoio e il laureato deve percorrerlo e essere pestato violentemente. È molto violenta la laurea qua a Padova. E poi adesso ci sono anche tutte queste pratiche del tirargli le uova, mettergli la pappa per gatti in testa e chi più ne ha più ne mette, insomma, le cose più fanno schifo più la gente è contenta. Ecco, ma i parenti non dicono nulla, io se fosse mio figlio, insomma, interverrei, il tunnel, lo picchiate, lo trascinate, non dicono niente i familiari? Ci sono alcuni parenti che magari si infastidiscono, soprattutto chi non ha mai visto questo genere di cose. Ma anzi ti trovi in situazioni in cui ci sono per esempio nonne novantenni che invece insistono, dicono picchiatelo ancora. Carine le nonnette. E da parte dell'università invece non ci sono restrizioni, non vi è stato detto datevi una calmata? Vabbè, e tutto questo viene fatto possibilmente all'esterno dei locali universitari per non creare problemi di ordine, anche perché perfetto, poi ci sono per ormai l'università. Talmente tanta gente che non si riuscirebbe neanche a avere tempo di festeggiare. Tutti i giorni ce n'è una, insomma. Sono veramente tanti, beati loro. Beati loro, datti da fare, ti laurei anche tu, e anche sì, tu sarai picchiato, trascinato, esatto, spalmato di panna. Ho tanti amici, troppi. In bocca al lupo, Giovanni. Grazie, crepi. Nessuna restrizione neanche all'Università di Torino. Mamma e papà, dice infatti il rettore Ezio Pellizzetti, hanno tutto il diritto di festeggiare. Io credo che sia sempre mantenere, diciamo, questo momento come anche un raggiungimento di un risultato. Molte, oltretutto, se devo dire, in molti casi molte famiglie non hanno addirittura nemmeno uno dei due genitori laureati, quindi per loro comunque è sempre un momento di soddisfazione, e quindi io per il momento non vedo il motivo di mettere delle regole così stringenti. Insomma, da lei non arrivano pullman con parenti, non si tirano uova, non... Ma no, fino adesso, se devo dire, assolutamente non è mai successo, e quindi forse sarà lo stile un po' piemontese, torinese. E anche oggi ci fermiamo qui, questa puntata è disponibile su radio24.it, a sabato prossimo.